Sì, buonasera, aspetta un attimo, vado a aprire la porta. E lascia la chiusa, non l'aprire. Sono tornato. Sei tornato? Ma anche questo c'ha il bimbi? Eia. Vabbè, non l'ho sentito. Questo è quello che ho cambiato lo smitter. Quel 48. Canta, c'è ogni picchio di modulazione. Sì, ce l'ha. Cosa? Ce l'ha. Bega assorbi, ma quanti batti dà questa parigi? Davvero? Davvero? Ho detto che sa quanti batti dà. Sta pagando un favetto, c'ha un picchi, c'ha un medio picchi di modulazione del radio. Il batti mettere più vuoto. La sto misurando adesso, da quasi 20 watt, però questo c'ha il doppio modulatore pure, capito? Per quello. Cavagava, è un cavagava. È bella condizionata, funzionato sta. Non lo so. Dovevo venire la macchina, non lo sai. L'ho presa stamattina, ma no, non venire a casa e quindi non l'ho già attaccata. Ma ogni tanto attacca, l'ha capito? Oh. Ogni tanto metta in funzione. Faremo così. Ma io ogni tanto già l'attacco, capito? Però cavagava è un casino. Cavagava. Quella cosa trovata me l'hai, quel coltellino. E dove te lo trovo? Io ce l'avevo uno come questo qua che c'ho qua. Però non mi ha messo di laggiù buccio. Oia, fa giù un capo. Anche io quello che mi ha dato tu non so dove ce l'ho buttato. E giù in campagna, non fa giù capo di nulla. Quando mettono cosa apposta, perché non so dove la metto. Era nuovo, mai usato. Chissà che fine ha fatto, E cavagava, ma ne prendo uno buono, cavagava. Quanto è il segnale lì? Non l'ha già mai data, chi viene più di franco a Parigi. Ma già proprio. E a chi te cavagava, ma te sì, ma. Non ci sta più entrando nessuno, Ci vedo un puricato, mi vende tutto, e buonanotte, giornatore. Non ne vale più la candela, giusto, non ne vale più la candela a spendere su. Per carità. Infatti non sta entrando più nessuno. Cosa? Secondo me va, mi vendo tutto e se la prenda in quel posto. Sto più tranquillo e tutto. La sera che lui entrava, papà non c'era più nessuno. E lo sai cos'è? Perché sono tutti al computer adesso, capito? Quindi sì, qualcuno già entra in radio. Prima c'era il canale Porto Torres, neanche Porto Torres più c'è. Ma cosa vuoi che ti dica? Infatti, la via appena attesa la gente da te. No. E a chi ve lo provendi che tu cavagava? A vedere quanto era me. Ehi. Andiamo. Per carità. Non l'ho provato col lineare questo apparecchio. A chi gli doveva essere un cavagava proprio? Questo è un cavagava. Cavagava, Gizio. Questo è cavagava proprio. Anche questo qui. Anche quello è un cavagava. Io sto uscendo basso adesso. 9.25, 9.30 quasi, sì, qua. Andavai, capito. Andava. Questo è quello nero, qui. Copiato, Eglia. Vabbè, questo esce meglio, comunque. Questo è il tuo altro pianeta. È un cavagava, Ghiccio. Guarda che ne ho visto uno di quella roba là. Questo è più forte dell'altro, no? Sì, già l'ho preso. Davvero? Allora ando una cragubba e... completamente diversi. Va bene. E ogni tanto l'accendo, che sennò non vi... si rovinano, capito? Cioè, li ho sempre spenti questa radio, cazzo. Non mi sapevo mai. Sì, io già ci sono, però se non entra nessuno mi vendo tutti. Venditi! Ma cosa vuoi che ti dica io, Natalia? Beh, perché mi sto stancando, capito? Non è altro. Beh, ogni tanto. A vedere com'è, guarda un po' il segnale. Oh mia, mamma mia, mi basaccia tutti i nomi. Abbasso pure, vabbè, la bacio tutto canto. Adesso lo faccio andare qua. Sì, ma sì, saturazione. Un po' forte, no? Aspetta, forse va bene. Così va meglio, no? Sì. Saturazione, troppo forte. Troppo ingresso gli ho dato. Sì, infatti. Aspetta, provo a abbassare l'ingresso un attimo. Guarda adesso, gaba gaba. No, adesso non è. Tutti che sta guardando a vedere chi è. Ciao Kurt, ma che guarda qua su Mianeg. Che ti vuole? Ti ha chiamato. Conosce la voce. Allora mia mamma l'inghidurunaggio. Isso è una vecchia volpe. Una brutta bestia è figlia di un cane. Proprio così è. Una vecchia volpe. Allora, c'ho tre baracchini, un ricevitore, quattro potabili più un altro veicolare. Tanto posso domandare. Allora, quel portatile non lo dare uno perché serve. Ne ho quattro portatili. Lo so, ma uno tienilo che ci serve se tiriamo le lenti a largo, capito? Chiara, chiara. Anche se no, fai ma ti ha fatto uno con l'asciugamano, fai ma di, e ti ha portato pure la gamba dal Boggiacca. Tutto è trincato dal Boggiacca, ti ha portato, da chi non vi dia, chi non vi l'asciugamano dal piano. Che dove ti lo è? Infatti, erano a due, li teniamo, quei due neri. Ehi, tieni, non le dare quelli lì, che servono, capito? Sì, un casino, magari poi quando ti servono e non hai. Ma dopo quando vedi da qui cosa fai? Quando ripeti devi dare, la gente la vuole gratis la roba, non hai capito? Ehi, ma la gratis no, che non esce nulla, che sono pagati quelli di là. C'ho due omologati. Vittore, quell'altro, e so tre, il ricevitore, quattro portatili e uno veicolare, di cui portatili. Lo so, però la gente lavora gratis la roba, non hai capito? Se gliela regali va bene, è un casino. Ah, due microfoni da tavolo, di tavola. Anche due microfoni di tavola c'hai. C'hai il tanner più 3. Di più 4 è il tanner più 3. Ah, l'alimentatore ce l'ho anche. Mi vendo di poco. E l'alimentatore da quant'è? Da 30 ampere. Ma di chi sono? Di quelli dei cinesi? No, c'ha il voltmetro, l'amperometro, questo. Ah, io ci ho alimentato io. Vabbè, ma ne hai uno di qui? Sì. Io ne ho uno da 32 qua, e uno da 50. Annuncia, se non è drastico da 50. Adesso mi vendo, faccio tutto in soldi. Ma dopo quando te li vendi? Vabbè, ha detto raccomparativi, capito? No, non li compro. Se mi li vendo, non compro più nulla. 1000 euro cazzo di macchina fotografica. cioè il mio discorso è questo. Automaticamente, se non ne usi di questa roba, cosa dimmi vai? Nulla, è la tariffa che da cosa ne mi rivolgo, quindi tanto se non entra nessuno basta guidare. E magari adesso non entrano, poi vedrai che già rientra, perché la gente oramai se ne va al mare, fare tutte queste cose. Ma no, mi sono rotto le scatole. E capaga, allora basta vendita, metti in vendita, e me l'avrei preso uno, tenuto uno e buco. Quelli che non usi me l'avrei venduto, cosa te ne fai? Bah, tanto ne usi sempre una del radio, cosa te ne fai del radio? E infatti non è vale la candela, capito? E diciamo, non è vale la candela anche perché non c'è più nessuno, c'è... Beh. Ogni tanto io l'accendo quando sono qua, adesso l'accendo poco fa e dicevo se c'è qualcuno. Stavo provando quella radio lì dove stavo andando. Bah. Adesso c'ho io, praticamente vado il 48, il 68, dove vado? Rugoso, Vidacro, Vidacrancura, cosa me ne può tutti i terrani? Me ne tengo uno, il resto mi vendo tutto qua. Sì, infatti, non c'è neanche, non c'è neanche voglia di ascoltare perché non c'è nessuno. Mettono torna in zona gialla. Sì, la gariva. Io adesso puoi vaccinarmi, ma basta stare attenti. Eh beh, certo che sì. Cioè per me che io a due. Aspetta che mi stanno telefonando. Che raga. Dall'Inghilterra, chiamata internazionale. Addirittura. E pure in curva. Chiamata dall'Inghilterra. Ci sarà già telefonata, manco riposo oggi. Tutta la scheda te la mangio. Te la mangio tutta la scheda. Così è. Cavagama. Ci vuoi fare? Ma sì, oggi ho accompagnato la 50 dal dentista stamattina presto, infatti sono capito, ero dormito qui in salsura, mi sono svegliato e ho acceso questa suria qua. Ah, tutto a posto? Sì, a posto, da mettere a posto. E vabbè, piano piano già si sistema anche quello, capito? Mi ha trovato Pomponio, la massa di rivale. Sì, più più più. Sì, sei Pomponio. Pomponio! Non entra adesso, non entra, perché è stato scoperto e quindi non entra, capito? E non lo fa più ciucchi ciucchi, ciucchi ciacca, o ciucchi ciucco. Sì, ci sto cagato, sì. Tutta sciolta. Io, per carità, cazzo, capito. E vabbè, comunque... Già il sistema una bella cosa, già non c'è problema. Prima già non c'erano di queste cose, ma adesso diciamo che con la nuova tecnologia si fa quelle altre. Sì, infatti. Che ci vuoi fare? Che pare arriva la varia, era un vento, cazzo, ma un vento di maestrale. Però adesso ha la attenuazione. Sì, tutta questa guida mi pare in averlo. Sì. Tu ha detto la televisione, cosa ti vuol dire? Ciu cu ciu, la mazza non entra, mi ha davanti ai punti chiusi. Sono sicuro che era ciu cu ciu. Ha fatto ciu cu ciu. Oh, a me non mi pareva Edo. E vabbè, sarà stato a caccio, se no è Edo. Vabbè. Io adesso come lui mi chiama alla Comuro. Parlare con Muro. Io con Blocchetto, eravate sicuri. Ma non vanno la buttata quell'antenna, voi vecchio. E quale antenna? Mi sa giubbiazza a Dio, già è bella ancorata, vabbè. Non è che sia pesante come antenna. Eppure mi piace, è bella. tecnologie, vabbè, non è una delle migliori. Già va bene, però la 95 è tutta una cragua. Vabbè, per parlare qua a Sassari, cosa me la punti? Tanto Riex io non è faccio. Io ti so come dica, giù 4 di ex pure un ghisca che basta a me. E so che arrivi in punta di casino. Che mai fatto? Avanti il treno notturno. Ciao oggi, buonasera. E dove sei? E quindi io volante da gomma ti sto arrivando anche lì. Negativo, cari turni, era questa, buonasera Eugenio. Infatti io sto utilizzando l'antenna in gomma. Ho detto sicuramente arrivo anche lì, capito, con l'antennino di gomma. Che Natalino, vai Natali per un giro, se l'ascolti. Basso basso l'ascolto, ho sentito che è in camper ma non dov'è. Praticamente ha ripunti. Cappa. Sto usando un attimino, forse per quello che l'ascolto un po' bassino lì. Pure l'antenna che bassa che c'è. Vai oggi, ti saluta Natalino comunque. Sì, sto uscendo con 2,5 anche. Sono basso basso mi. Ti ascolto, ti ho ascoltato Eugì. Ha detto che ti ha ascoltato Eugì. Io a lui non ci riesco a tirarlo fuori Ha detto a Natali che non ti ascolta lui comunque. Non riesce a tirarti fuori, capito? Guarda se mi ascolti adesso, dai Eugì. Tutto a posto, è da mettere a posto, dai. Già ti ascolto, non c'è problema, dai. Poco fa ero basso basso e per quello che non mi ascoltavi. 2,5 stavo usando. Io non appena riesco a fare. Ho il microfono amplificato, non appena riesco a fare i contatti, metto il microfono amplificato al suo baracchinetto, magari la radio c'è un po' più forte. Può darsi di sì. KK, guarda sto venendo un 48 modificato oggi se ti interessa E guarda che sto dando un Galaxy Saturn Echo se ti interessa. No, io sto vendendo il 48 con doppio modulatore, scheda Colt, tutto quanto. No, sono rimasto scontato al 48, non mi piace, poi sono arrivato io a casa e qua in camper sono arrivato. Il Saturno uguale con la stazione base. Stazione base, Galaxy Saturn Echo, stazione base. Quanto lo stai dando, cosa va a chiedere? 230 euro, 230. KK. Natali, ancora ci sei? Sì che ci sono, dai. Dove ti sto arrivando lì oggi? Guarda, non te lo so dire fra... Allora, la radio è ottima. Segnale, non te lo so dire perché non è a Spitter questo baracchinetto. È un baracchinetto della casa, del camper, è un Midland piccolino. KK, poi ho capito. Oh la la, è importante che ci ascoltiamo, dai, poi per il resto già va bene. Sono abbastanza soddisfatto, dai. Per l'antenna che ho va bene, mi ascoltate va benissimo. Ah, io ti ascolto bene qua, non ci sono problemi. KK. Che antenna stai utilizzando oggi? Una Midland, sono riuscito a leggere solo quello, Midland, è piccolina, è 20 centimetri, capito? È piccolissima, è nera. Ah, già la conosco, quelle piccole sono, sì. Ma già vanno bene quelle antenne, non ce n'è problema, capito? Vanno benissimo. Chiaramente in distanza no, magari in lontananza ti servirebbe un'antenna più alta di quella. Sto perdendo, ragazzi, vi sto perdendo! Dove sei arrivato adesso? Vicino alle gallerie, alla Kuwait, dai, ingresso via Lettania. Gava, va bene, dai. Ci sentiamo Eugenio, buona serata, buon proseguo, ciao. Ciao Eugenio. Sicuramente sta andando nella zona di Olbia. Azzetta che posso una bru, avrà. Fai, che sto trovando una cosa, ecco. avanti. Scappa. Ma di segnale sei un bel basso, sei 2-3 qua mi stai arrivando. Non sei forte. La devi mettere al centro del frigo. Ma dai, funziona. Scappa a capo. Capito, prova a metterla lì al centro del frigo. E vedi, dovrebbe andare, capito? Al centro del frigo va bene. Gli spazzoni ogni tanto hanno problemi, un casino, insomma. Il tuo RG58 non si vede nulla. Sempre basso, sì. Oh. Sempre basso ti ascolto, capito? Va bene, adesso si sente a volte radio 5. Prova a spostarla ancora un altro po' a vedere. Era meglio prima, mentre non era prima che va bene. Prova. Santiago 7, 8, quasi 9. E lascialo così che già va bene. Aspetta un attimo. Ho detto stanata te l'hai, l'antenna giù di tu, bocca a pulso. Già va bene, 7-8 sì, dai, 8-9, lasciala così, e lasciala così, già va bene, così va bene, perché l'altra disturba? E allora la così, ma secondo me è problema l'antenna di loro, a tutti i dini, non cacchi loro, ma che antenna stai utilizzando? La 1000, e capo, quella va bene, è una bella antenna quella, capito? Andare e lasciala così, va bene, cosa stai lì via a modificare. Adesso provo con l'altro quanto mi arrivi di segnale, vediamo un po'. Fai un passaggio, ero distratto, 1, 2, 3, fai Santiago 9 e radio 5, va bene, ti ascolto benissimo, a Puglia, tutto sotto controllo qua, tutto sotto controllo, frate, tutto a posto, gabe. Salito di segnale però. Avanzo con la antenna. Forse 9.30, 9.25 a 9.30, capito? Però sono più basso, con 2 watt e mezzo forse. 2 watt e mezzo? Sì signore. E comunque già andava. No, io sto scendo 10-20, ti batte 9 watt. Sì, vabbè, andava dai. Andà bene Neda. Se addirittura adesso volevo fare una cosa. L'ho abbassato. Ecco. Io così posso tenere 2 canali sotto controllo. Capito? Io ne aggiungo 1, 2, 3. 3 canali sotto controllo. Messa tu. Ma non contemporaneamente però. Sì, sì, tutte e tre sotto controllo. Perché io ho 3 antenne, capito? Io mangio 3 antenne, conto la prima, la seconda e la terza antenna. Allora, ho diverse radio che collego. Prima di essere sono nel 10, nel 20 e nel 30, oppure nel 5, nel 15 e nel 20, capito? Quindi ascolto tutto. Poi c'ho il ricevitore, non è un problema. Vabbè, anche io c'ho il ricevitore qua. Il ricevitore lo mette in scanner, dove c'è gente si blocca lui. E adesso è spento, perché sennò si sente quando parlano. Pagava, beh, costa un ricevitore così. E non mi lamento nemmeno quanto l'ho pagato. Avevo voluto uno di Ricidia HF, vaffanguala. Almeno mi sarei divertito un po'. Basta buscare un 140. uno 300 euro. Già lo so, ma non ne voglio di quelli che non vogliono usare la cosa. E la quale? Non lo so. Luce come ricevettore, sarà una fuga. Ma se te lo trovano qua, già, a Cavaniru veni mari, no? Come te avevi un ricevitore che lo dava in chibi e non ti pone di nulla, compreso. Ma poi su che vuoi, frequenza. Ma avrà un cacchio per raccontare, possiamo stare là. Ma c'è più nessuno a Carino, hai capito? No, perché nessuno. Ho visto, addirittura stanno vendendo tutte le radio, anche Radio di Fuori, Radio Mattoni, stanno vendendo tutto, anche le antenne, capito? Non c'è più attività, la gente sta soffrendo di queste cose, non c'è più passione come una volta, agli anni indietro, capito? E infatti non è manco da etiche attività, quindi è inutile, dai. Anche loro stanno vendendo tutto. Cioè, se non c'è nessuno, questa radio, fra un paio d'anni non ci sarà più nessuno, il mondo della radio finirà, capito? In effetti. Andare. Nelle bande alte non puoi ascoltare niente perché sono tutti in digitale, anche se tu te lo compri non ascolti un cavolo. Perché vogliono programmate, in un caso se non hai l'ID non funzionano. Vuoi il nominativo e l'ID e per darti l'ID vogliono l'autorizzazione generale, se no non te ne danno. Quindi è inutile che te lo compri un digitale. E non te ne vai una, cosa te ne fai? Se non funziona cosa te ne va? Una cosa che non funziona di te. Nulla, infatti come sto dicendo io, non te ne fai niente. All'usai cosa posso? Posso una fotografia e vendi tutto in blocco, vendi stazione CB. Ma te ne puoi tenere uno solo, sa già che tu te ne vai. Te ne bene uno, e buh, sei proprio ci tieni, e basta. No, nuda, ho tutto nuda. Mi vendo tutto così, no, non parlo con nessuno, non me ne sbatte nulla. Almeno non faccio nessun finanziamento. Mi ando in giro, invece hai nobi, tanto mi già mi sto rimettendo. Ma infatti, fa a blocco, vendersi tutto 1000 euro. No, io se vendo, mi tengo quello là, il K e il resto, mi vendo tutto, cosa cacchio mai faccio? Cosa mi dico? Vabbè, ogni passione lo sai che viene e passa, come tutte le cose. No, ma a me, se ci fosse tanta gente, entrava Gianfranco la sera e mi facevo la chiacchierata, Giulio, e invece va, non entra di più nessuno, entrava anche Claudio, aveva diversi non inteso niente, né, nessuno, neanche lui, e non entra manco lui, quindi cosa mi ritenga a fare? Mi vendo tutto e basta. A parte che c'è caldo, capito? Un po' di gente magari c'è cosa da fare, no? Che sta sempre attaccata a questa radio. C'è roba da fare, a volte magari quando ti trovi dentro casa che non sai cosa fa, lo accendi, cioè entra una persona, ti fa la chiacchierata e poi spegni. Guarda, se io mi vendo tutto sto più tranquillo e sereno, capito? Tanto il fotografo mi ha già rompito i ricatti, mi ha detto che io sono di più bene, ma va a fanculo. Non te ne male, ti ricordo una giusta, cazzo, non posso nemmeno. Quando disturbi, è un casino. Casino è quando disturbi, è un ribus, cazzo, per carità. Ma forse è stata mia la colpa, ma è colpa di loro che hanno l'antenna in marcia. Cosa cazzo, se mi ne viene qualcuno a casa, ti ricordo un caso, cazzo, da come in terra, sangurone lo lago in corso di finita, non ci credi? Vedrai, adesso mi ribello malamente. Ma la trovate qua e bruttate le mani. Che cosa vuoi fare? Se me ne viene qualcuno, cazzo qua, a rompermi le balle, mi sembra. Perché non sono disposto più a sopportare nulla. Ma cosa vuoi ti dica io, Natale? Boh. Si discute. Ma non è che c'ha problemi l'antenna a questo. Se l'antenna mia è sopra l'antenna sua. È logico che c'ha problemi l'antenna. Io non dicevo la televisione mia che è 90 roba Rudelli. Cazzo vuol dire che chissà Rudelli che non andava. gli entri, no? Bel casino quando è così, buio, una rottura di palle. Cosa vuoi, io più chiaro di così gliel'ho detto, e alla fine quando ti rompono le scatole da lui diventi nervoso e fai cose che magari sui tipini, perché se a me me ne viene qualcuno, ho giurato che gli metto le mani addosso e lo rovino, a chi lo accusa Anguroni. Ma stai a buttare mani e baghetti errati, magari lo guardi e va. E allora mi vendo tutto, se riesco a vendermi tutto sono tranquillo, almeno non picchio a nessuno e no, qua sono più tranquillo. Infatti adesso cerco di vendermi tutto, così almeno finish. Vabbè, ma dopo lo disturbi sulla Rai? Cosa ne so dove li disturbo? Li disturbo e basta, la mia è nuova, l'antenna nuova, relativamente nuova, la mia pure c'è sui anni l'antenna, solo che è del tipo nuovo la mia, c'ho l'amplificatore e non disturbo, non rivolgo nulla io. A chi tu ve ne ho, dimmi, e ti dimostro che io non gli faccio niente. Bah. Probabile che ci abbia problemi lui su un'antenna TV e disturbi per quello. E allora problemi hanno, poi me ne hanno piazzato una attaccata all'antenna mia del baracchino, dimmi tu, se non gli c'è l'antenna che disturbo, cosa ne so. E allora può essere quello, Natali, magari disturba per quello. E vorrebbe sollevata quell'antenna, o il tipo d'antenna, cazzo, buh. Secondo me lì ci vorrebbe una master. Sì, però per mettere la master ci vuole gente, capito? Perché da solo io non ce la faccio. Non vedi come ti è piazzata, è pericolosa a voi. Non lo so. Quella non disturba sicuramente. Ci sono quelle autocostruite di sironghi che pompano in volte. Sì, se no la massa rimane sempre bassa. Se l'abbiazzi, l'abbiazzi più ascia, compreso, ci vogliono i tiranti, un casino. E se fate quella canna da pesca andare in vembe, esce in volte, Sant'Enni. Sì, lo so. Però è inutile piazzare una di quelle, perché se la piazzi bassa è peggio andare al buio. Ma lì il problema è che tu non è che puoi sollevare, non è che puoi sollevare più di tanto, lì, capito? Quanto puoi sollevare da dove è adesso? Anche un paio di metri mi basterebbe più alta. Almeno un 2 metri. Almeno invece di essere 2 metri fuori d'altezza è 4 metri. E almeno sei sicuro che non disturbi né nulla, radiali non ne ha. Master, ed è più sicura, da. E ti ordini quella e ti piazzi quella, qual è il problema? Il problema è accenderne questa, l'antenna, e a ripiazzare l'altra. Ecco, è un po' più lunga vorrebbe. Solo che il tubo che c'è, l'ultimo, dove è attaccata l'antenna, proprio di qui, è ondeggia, a che fino di spessore? Vorrebbe qualche tubo d'acqua dentro. Anche un tubo da mezzo pollice va bene, da un pollice. Sì, infatti, pure da un pollice. Ma io ne avevo con tant'era questa antenna, la via già bassa, secondo me è il problema l'antenna. Con l'antenna fanno più guai, Natali, è un ferrino. Eppure Marco c'ha la stessa antenna e non disturba a nessuno. Sì, bisogna vedere se non disturba. Non lo so io, No, ha fatto le prove, ha fatto. Adesso io quello che disturbavo in fondo al vicolo, a Giuseppe cosa non lo dicevo più, che è pulsato l'antenna e se l'ha fatta nuova di passi. A Giuseppe l'antenna non vuoi più. Allora, quelle antenne che lavorano in corto con i radiali disturbano, c'è un cacchio da fare. Se tu la metti più bassa dell'antenna TV disturba, non viene, te la metti in occhio di cui bavolo ma pensi io. E Marisa era più alta di la antenna TV di in fondo al viottolo, solo che adesso l'antenna non c'è più, la Barbara ha messa da un'altra parte e non lo disturba, come si spiega? Non ho giunto via su un campanito di grasso, disturbo solo al fotografo. Vedi le giambassi l'antenna al fotografo. A me me l'hanno detto, gli dica di cambiarsi l'antenna, quello lì, perché se interveniamo noi poi sono cazzi dentro. Ma ne di tutti, chi si controlla ne proprio. Magari l'antenna è usurata e fa quel lavoro lì. Sì, usurata su sarà. Cosa vuoi ti dica? Non so che dire. Sì, vorrà cambiato l'amplificatore, vorrà cambiato il capo lì, le antenne che ci sono, vorranno buttate via quelle. Oppure cambiate l'ispezione se l'antenna è buona. Te lo ricordi la tua che c'era rimasta in mano, l'abbiamo cambiata e non dice il babi di. Stavo dicendo, prova a ordinarti quell'altra a vedere, e monti quella, e quella te la scindi. Devo trovare gente che mi aiuti a farlo, perché per ordinarla questa gente di 60 euro noi questa la rincubranti. E se ci devo lasciare a farannia questo cazzo d'antenna in 3 a Puglia vi bravo a farannia. Sì, in 3 o 4 bisogna essere, è che io sforzi non ne posso fare, che mi hanno operato a poco di ernia a gatto. Beh, non ce n'è gente a darti una mano a farlo. Via, vai demo, se c'è per lo raccomando di darti la mano. E via. Se vedo che c'è gente che viene, già lo faccio quel lavoro lì. Ne busco un tubo nuovo, perché quello lì, ragazzo, quell'ultimo pezzo è ondeggia con quella lì. Figurati quella che è in massa. Tu lì ci devi mettere un tubo d'acqua, capito? Un tubo di acqua zingato e non sbagli. Sì, infatti, un garaggio, un tubo da un pollice. Mi dà quella metà di gente, tanto a me mi interessa. Chi sia a 4 metri, a 3 metri, 4 metri invece di lui, chi sia un poco di più di me. Scusa, ma di tubi che fai in campagna, non andare per i visti. Questo è un carro da 12 metri, andare. Ma bevono i diranti, ma stessi. E vabbè, ma se ce l'hai il tubo in campagna, basta salire, se ne smartella quella che c'è, l'antenna. E si mette il tubo, quel tubo si prende e si utilizza lì da te. Aspetta un attimo. E la cosa vai? Ti compare che torna un tubo, devi pindito, ora con i tubi. Non è che fare così, sennò un casino lì. Ma gente, attenti da signora Maria, ma senti, non laga ma sarà niente dritta ai tugani. Perché lui fa la guardia. E allora? È una brutta bestia quella lì. Sei un figlio di un cane. Beh, figlio di cane sicuramente. Sei figlio di un cane, brutta bestia, vieni qua. È una brutta bestia, sì, l'ha detto anche zio Franco. Lo sai cos'è, è il casino, è quando disturbi, allora tu hai palle, non puoi parlare, non puoi fare nulla. Andiamo, andiamo, che è? Va bello Guariello, buonasera, che perché è? Andiamo, andiamo, ma però. Ebbene, tu hai... Ma salino, io franco a caire, è lus. Allora, va vai, tu si rintende a Luca. Ma che bello, al mare, andato ci sì. Di gomma. Ma la vedi, dove sta male? No, niente. Ehi, c'è la mare brutta, non c'era nessuno, mi spiace, poca gente, c'era freddo pure, capito? Sono sceso giusto a fare un giro lì, però c'era mare agitato. Ah, non fa, ancora è brutto. Penso che cambi da domani o da domenica. Comunque da lunedì tornano le temperature normali. Allora, praticamente, ha dato miglioramento la domenica sera, dovrebbe migliorare pure la prossima settimana. Di nuovo, le temperature saranno sempre uguali comunque, non c'è variazione di 40 gradi, dovrebbero essere i picchi da 26 a 28, adatto. Via. Positivo che parraggi, dai, che la vita via, che... Che bello. Come va questo gaba gaba? Bene, gaba gaba. Positivo gaba gaba, tutto positivo. Natalino che bello, riprendi tu per girare la ruota. Gaba. Ma te non hai bisogno dell'antenna perché la vuoi cambiare? Fa. Che te la vuole mettere? Vuoi mettere una Master. Ah, la Game Master? K. L'ha detto, mica dimmi una mettere la mia di gomma, funziona per un mattese. La mia è fea, Lasci bene fra, casa è fea. Vabbè, allora, come ho sempre detto, se uno anche, tu ci mettevi una boomerang lì, sparavi comunque, perché sei in alto, capito? Lascio Luca, però vabbè, è brutale, è importante che non disturba, che non fa TV, hai capito? Beh, ma io qua non disturbo, è pure interrato. Infatti, no, ho capito, lui, Natalino ci sta disturbando. Cabagaba, aspetta, è proprio un'altra radio, Luca. Questa è l'altra radio, Luca. Questo è Cabagaba. Il Magnon Cabagaba. Andava in giù, Luca. Sì, un po' cupa, già va bene. Cupa. Perché c'ho problemi, lo vedi? Sul trimmer, l'ho cambiato da poco questo trimmer, forse devo ricambiarlo. E già provavo il microfono suo. Cabagaba, questa è un'altra cosa la radio, questo è il suo microfono, Cabagaba. Ehi, adesso è più chiara, dai. Più chiara. E questo è il suo microfono originale, lui, capito? Qualora era... quello da tavola, è questo il suo. Sì, va bene, non so Natalino come ti ascolta, Natalino come lo senti? Mi sa che mi ha detto quello aggiustarmi la barba, là, riprendi Natalino. Eia, buona aggiustata di barba, là. Io già lo sento bene a Franco. Questo è il suo microfono originale, Natalino. Un abisso, Un abisso di che senso? Più forte delle baby più 4. Sì, è un abisso. Avvero? Sì, avvero, sì. Allora, lascio questo. Mi pare a me. Cabagaba, vuol dire che quella me la vendo, Cabagaba. E venditelo. Io l'ho regalato uno addirittura di Ghisi. E ne ho uno nuovo, qua è più di tarne. E hai fatti. Intanto non me ne faccio niente, lascio questo. Capito? No, c'ha problemi sul... devo cambiare il potenziometro, capito? Perché non c'ha... ho la batteria nello scarica, perché prima ci va forte. Ma questo è un bel... ma è il doppio più forte, lì. E lì la Luca, a vedere, con questo microfono ci vuole più, Questo suo originale. E questo che stai usando adesso? Questo è il suo microfono originale, il microfono normale, dai, diciamo. Però è preamplificato già dalla radio, capito? Quindi non ha importanza di utilizzare l'MB più 4, anche perché mi va meglio questo. Ci sono usato in poltrona. Sì, infatti. Che ti ruba di qua. A me questi microfoni da tavola che mi piacciono più di tanto, capito? Preferisco sempre questi microfoni palmari, perché te li allunghi di Bose, di Vai. Sì. Ma cosa vuoi ti dire? Io... cioè, forse magari c'è qualcosa a quel microfono, quello MB più 4, perché quello che stai usando adesso è troppo di lusso. Chiara la radio, voci. Ma non lo so se è problema di batteria o se è problema del coso, del potenziometro. Ma secondo me la batteria metto scarica. Può darsi. Aspetta un attimo, voglio dire una cosa. Sì. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, allora, 1, 2, 3, vedi, a volte non esce, qua, prova radio 1, 2, 3, oh, l'altra è più forte, ma a 100 volte. Infatti, io sono giudizio io che non c'è confronto. E infatti, questo è molto più forte. Quello è Cabagaba, frutti. Questo è un microfono Cabagaba. Anda bene, vero, vabbè, là. Adesso me ne passo in quel rettio che devo fare cosa qua. So già di sì. Uiaia. E ci sentiamo alle prossime, da tanta va, amico. Mentre ti andiamo in uno, mentre abbiamo in giù. Vabbè, Atari, dai. Buona serata, buon tutto, ce la riascolto alle prossimine. Saluto in casa, anche da parte mia. E alle prossime. Ciao, ciao. Ciao, alle prossime. Salutami in casa. Cotra cambiato, Cabagaba. Cotra cambiato, frate, Cabagaba. Ce la chiama tu di Cabagaba e ce la riascolta. Ciao, ciao. Chiuso per me, passo in QRT. Salutando anche quelli che sono in ascolto, che ce ne sanno perché in ascolto. Per me QRT, ce la riascolta alle prossime. Ciao, ciao. Giulio, andiamo bene, andiamo. ciao Fra. Ciao, tutto bene? Tutto bene, c'è fresco oggi, E io ho iniziato a riflettere un'oretta fa. Ma ultimamente stiamo lavorando bene. Non saranno contenti i turisti o quelli che sono in fede, che stanno andando al mare, che vorrebbero andare al mare. Per lavorare va bene invece, meglio così. Avanti Giulio per Luca. Ok, ciao Luca. Sì, no, oggi si sta bene, la giornata è fresca, così mi piace di più, perché quando c'è troppo caldo, ma non è tanto il caldo che mi dà fastidio quanto l'umidità. Però oggi si sta bene, dai, non c'è problema. Avanti Luca. Sì, vabbè, per quanto riguarda i turisti io penso che le temperature da loro sono diverse da queste. Anzi, per loro queste temperature così si dice vanno bene, e penso che si faccia anche il bagno al mare, perché è capitato a me di andare mai giornate così, no? Non così fredde, però così brutte, io bagno non me ne ho fatto, loro stavano in acqua. Beh, dipende da dove arrivano i turisti. Se arrivano dalla Spagna più o meno sono come noi, Certo, se arrivano dalla Svezia si possono anche capire. No, anche la Germania, anche i tedeschi si buttano dappertutto, anche perché loro sanno in genere nuotare bene, perché fanno piscina, fanno tutto. Si conferma. Andava, riprendi. Fatto vedere, un po' usciamo, là, fa una passeggiata. Mangiarci qualcosina. E qui. Niente, giusto per passare una serata diversa, avanti giù. Ok. Va bene così. Sì, i turisti, vabbè, è giusto che vengano, però allo stesso tempo mi sa che stanno portando un bel po' di contagi oggi, 140 contagi oggi in Sardegna, e non è poco, tutti i giorni stanno sempre aumentando. Ma comunque, vediamo che se riesco a debellare questo problema abbastanza serio. Avanti Fra. Sì, l'importante è però che si stiano alleggerendo gli ospedali, là. Purtroppo la malattia c'è, l'importante è che non creino ricoveri e crisi in ospedale, l'importante è quello. Sì, beh certo che sì, è chiaro che sicuramente l'effetto vaccino, il suo effetto lo ha fatto, dai, meno ricoveri, meno morti e tutte queste cose qua, ormai gran parte delle persone, perlomeno in Italia è vaccinata e dovrebbe resistere un po' di più, però nonostante tutto se contagi ci sono, bisogna stare molto attenti, molto attenti e prudenti soprattutto. Avanti Luca. Un attimo giù, ripetete tu un attimo, arrivo subito. Ok, capito Fra, per cui va bene, se quando non si finisce di vaccinare tutti il problema ci sarà sempre di più, naturalmente è destinato a diminuire il contagio, è ovvio, quasi se non fosse così. Mi sa che dovremmo abituarci a conviverci con questa influenza, tipo quella che arriva ogni anno, dovremmo fare il vaccino, un richiamo ogni anno, chissà. Spero di no, ma mi sa che la tendenza è quella. E così si dice, perlomeno il vaccino, anche se l'hai completato, vale 270 giorni, praticamente 9 mesi, ma dopo i 9 mesi non è più affidabile, magari chissà quanto sarà affidabile anche in questi 270 giorni, che lo sa, loro dicono che va bene, ma non è così, perché tanta gente che ha fatto il vaccino il contagio se l'ha preso lo stesso, soprattutto io fra i giovani si sta diffondendo moltissimo. Vabbè, c'è gente un po' incosciente anche, dai, è quello, il problema è quello. Beh, quando sei giovane si crede un po' superiore a queste cose, si sente più forti e non ci si pensa a queste cose. Stavo guardando un'antenna l'altro giorno su internet, sempre autocostruita, la prima parte diciamo lo stilo in cavetto elettrico, che mi dice qua 2,49, invece la parte che va verso la bobina, sempre 2,49 in RG58, e poi c'è solo la bobina, quindi senza condensatore e senza adattatore di impedenza. ci vanno 16 giri da 6 cm, da 60 mm. E va dalla frequenza da 26.500, dovrebbe andare fino a 28.300. L'hai vista quell'antenna? Non so se renda più o meno di questa che stiamo usando noi, che sto usando io, là. Ah, con le misure che hai detto dovrebbe essere una mezz'onda, perché è così, praticamente un'altezza totale di 5 metri qualcosa, dovrebbe essere una mezz'onda. Ma guarda, il discorso è sempre questo, tra la mezz'onda e la ciclotapi, almeno parlando della città, non è che ci sia poi tanta differenza, anzi forse tante volte la mezz'onda può essere anche più efficiente. Però in lontananza chiaramente una ciclotapi dovrebbe prevalere, almeno dovrebbe avere una percentuale più alta di RF di lontananza. Suppongo che sia così, però anche se senza impedenza, senza niente, è sempre un dipolo, e c'è la bobina è quella che conta, quella è fondamentale agli effetti delle interferenze, quella è importantissima.